e dimostra di essere un regista solido quanto almeno suo padre. Poi metterei un film che io considero, è arrivato in ritardo da noi, è stato premiato prima, che è Corpo e Anima di Ildiko Einiedi, è stato premiato a Berlino, perché è forse una delle cose più belle del cinema europeo arrivate in sala. E infine il film italiano che ha girato di più nel mondo quest'anno e di cui gli italiani si sono accorti poco, che è La Terra dell'Abbastanza dei Fratelli d'Innocenzo, che è un formidabile esordio, secondo me, all'ombra produttiva di Matteo Garrone, ma se dovessi sfidare lui e Dogman di Matteo Garrone, preferisco La Terra dell'Abbastanza. Quale scegli dei tre? Io sarò sincero, ho visto solo Corpo e Anima dei tre che hai detto. Io trovo un gran film, proprio un gran film. Però mi dispiace un po' di non premiare l'esordio di Fratelli d'Innocenzo almeno perché in fondo se lo meritano e Beh, ma quindi sceglierò questo. la scelta sta a te, Giorgio. Sceglierò questo. Evviva il cinema italiano, va? Ok, La Terra dell'Abbastanza. Facciamo gli autarchici. Ok, allora Giorgio, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto e ci si vede in sala, spero. Ci si vede in sala e ci si vede per tutto il 2019. Benissimo, a presto. Grazie, ciao. Ciao.